140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Parole dintorni, ufficio stampa, Milano. Il nuovo album di un pianista già molto amato, ma con una nuova etichetta di grande prestigio, con Nocturne, Remo Anzovino. Beh, Nocturne sicuramente segna un passo importante nella scrittura musicale, nella anche nuova esperienza con Sony, che lo pubblica su etichetta Sony Classical, che è un'etichetta che appartiene insomma proprio anche al mio vissuto, perché essendo un grande fan di Glenn Gould, insomma, sono cresciuto con i dischi di Glenn Gould su Sony Classical, ma soprattutto segna una cosa importante, cioè aver fatto un disco nel quale il mio obiettivo era quello di riuscire a scrivere e realizzare delle musiche che consentissero a chi le ascolta di prendersi del tempo per sé, nel senso che questa musica è una musica che ti invita a prenderti, ad avere cura di te, e nel farlo, nel non aver paura della velocità a cui stiamo andando tutti, cioè che il mondo ha preso una velocità impensabile fino a 10 anni fa, però a cercare di interpretare il tempo che viviamo. E per farlo ho immaginato che questa musica si svolgesse in una notte soltanto, e che il protagonista di questa notte fosse chiunque, e che questo chiunque, di qualunque angolo del mondo, di qualunque estrazione sociale, facesse un bilancio dentro di sé, ma non tanto solo della sua vita, ma del suo essere nel mondo, e pensando a cosa ha fatto, quindi al suo passato, e cercando di immaginare il futuro. Di un'unità di tempo, però a differenza della tragedia classica non c'è un'unità di spazio, perché c'è quasi un viaggio. Esattamente, nel senso che l'unità di tempo è una notte che può avvenire ovunque, come quasi ovunque è stato registrato questo disco, nel senso che a un certo punto la sensazione di descrivere, il bisogno di scrivere la solitudine umana e la bellezza della vita mi ha portato a toccare con mano, nel confronto con grandi artisti internazionali, che cosa vedevo se ero a Tokyo, se ero a Londra, se ero a Parigi o se ero a New York. E io in queste città ho visto la gente che è solo uguale, che è felice uguale, che è infelice uguale, che prende la metropolitana uguale, che attende ad una fermata di un treno uguale. E ho capito che nella diversità di culture, di tradizioni, di lingua, di cibo e di educazione, l'identità sono le emozioni umane che ci accomunano e che ci rendono tutti uguali. Si conclude con Vals pour une femme, il valzer per una donna. Cosa significa? Cioè, significa che tutto che la notte finisce in un abbraccio, che l'amore risolve, che è la risposta. Che cosa significa? Volevo dire che alla fine di questo racconto si rimane in due, non rimani da solo, e che in realtà le vere stelle non sono quelle che noi guardiamo nel cielo, ma le vere stelle sono quelle persone che sono dentro il nostro cuore e che brillano nel nostro cuore anche se tu non vuoi. Ed è tutto per questa puntata con Remo Anzovino. L'appuntamento con 140 caratteri è ogni sabato alle 15. Ci ritroviamo tra un'ora con RadioTube.